Era un autunno freddo, piovoso e noioso. Brandon è un ragazzo di Portland e produce beats per guadagnare. Produceva da circa 6 mesi con FL Studio. I suoi beats erano molto potenti, bassi 808 distorti, melodie trap molto particolari, ma vendeva poco su Beatstar, data la concorrenza infinita. È un bianco nerd geek fiero. Sa dove trovare i DAW craccati in free download. Era solito vagare per il dark web, qualche visita a market dove si trova quello che vuoi. Una notte su un link trovò una versione di FL Studio. Pesava meno del richiesto, circa 40 mega. L'installò e vide subito che l'icona al posto del frutto vi era un teschio e si inquietosì subito, ma allo stesso momento non vedeva l'ora di provarlo. I VST che conteneva erano totalmente diversi. All'apertura di un synth chiamato Brainwash, i suoni erano tutti distorti, voci al contrario, suoni di piano angoscianti, campioni di urla disperate di donna. Ogni tanto qualche parola appariva per una frazione di secondo con scritto Did It. FL Studio iniziava ad essere sempre più macabro, simboli satanici, la CPU al massimo e laggava senza far niente. Provò a comporre con il piano roll una melodia con campioni più malsani. Vi erano campioni da lui già sentiti in video di Best Gore, non c'era dubbio. Chi avesse craccato quell'FL Studio era qualcuno che conosceva Brandon, in arte Brecton. Brecton continuava il beat sempre più oscuro, perverso, con frasi di serial killers, sbudellamenti, gore, splatter, figure sacre derise da demoni. L'audio era distorto, in reverse. Brecton era posseduto da questa FL Studio, stava male, ansimava, rideva, non dormiva da giorni. Era diventato succube da questo DAW che solo uno psicotico, necrofilo, assassino poteva creare. Ad un certo punto un messaggio diceva di procurarsi una pistola, di puntarsela alla testa e di registrare l'audio. Brecton prese la sua 9 mm e mise in registrazione l'audio e alla fine del beat si suicidò. La forma d'onda dello sparo e del suo cadavere a terra era ben visibile. Nel laptop vi erano pezzi di cervello a brandelli, sangue che colava su pareti. Il beat ormai era finito. Il suo stalker hacker, che conosceva bene, era il suo rapper chiamato Angustia e decise di programmare ciò per un dissing. Il rapper salvò il beat in WAV con il titolo Angustia 666. Ci registrò sopra e la traccia incisa si trova nei meandri malati oscuri del dark web. Angustia divenne una leggenda horrorcore nel dark web. Nessuno sa chi sia, se sia vivo o morto.